gentili ascoltatori e ascoltatrici, un cordiale saluto a tutti. Oggi vi chiedo di fare attenzione perché tratteremo una delle dottrine più difficili, cioè la dottrina della Trinità. La dottrina della Trinità costituisce certamente uno dei temi più difficili della fede cristiana, nonostante le derisioni e le opposizioni. Da 2000 anni i cristiani testimoniano della loro fede in un Dio trino, senza avere la pretesa di darne una spiegazione rigorosamente razionale. Come cristiano chiedo, quindi, a chi sia scettico su questa dottrina, di essere paziente nel valutare le ragioni della fede che è stata tramandata una volta per sempre. Una cosa è certa. La divinità di Israele e dei cristiani è una. La scrittura a riguardo è precisa. Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Questa è la professione della fede ebraica che è valida ancora oggi. Ascoltiamo ancora. Or il mediatore non è un mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. Paolo si appella all'antica proclamazione ebraica. Nessun giudeo avrebbe osato metterla in discussione, nemmeno per un momento. Ascoltiamo ancora la lettura in Prima Corinzi. E infatti, anche se vi sono i cosiddetti dei, sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi in Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo di Lui. I pagani adoravano una pletora di dei e di dee, ognuno dei quali aveva la sua propria sfera d'azione. Paolo asserisse che l'unico Dio è responsabile di tutte le cose. Ascoltiamo ancora in 1 Timoteo capitolo 2. Vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. E ancora in Giacomo. Tu credi che vi è un solo Dio, fai bene. Anche i demoni credono e tremano. La fede dei demoni è monoteista. I politeisti, quindi, sono peggio dei demoni. Ascoltiamo ancora cosa disse Gesù nel capitolo 17 dell'Evangelo di Giovanni. Or, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Vi è dunque un solo Dio. I cristiani, però, pur affermando che vi è un solo Dio, contemporaneamente sostengono anche che nella Deità sussistono tre persone, uguali nella natura, ma distinte come persone. Da dove hanno tratto questa conclusione? È forse un'opinione umana partorita nel corso dei secoli? No. I cristiani credono che le tre persone della Deità siano uno stesso Dio in conformità a quanto affermato dalle Scritture. Avendo la fede cristiana tratto le sue radici nella fede ebraica, dobbiamo iniziare il nostro esame sulla Trinità considerando il testo ebraico. Possiamo cogliere la concezione di Trinità già nell'Antico Testamento facendo quattro riflessioni. In ebraico, per la parola uno, troviamo due termini. Attribuendogli un senso d'assoluto è Yachid. Questo termine non è mai usato per esprimere l'unità della divinità. Al contrario, per Dio è usata la parola Echad, che esprime una unità composta. Troviamo questo termine in Deuteronomio 6:4. Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Per comprendere la distinzione tra la parola Yachide ed Echad, occorre pensare alla differenza che passa tra una mela e un grappolo d'uva. È evidente che ogni immagine umana per raffigurare Dio è insufficiente e relativa. Dio non è composto. Ma gli esempi servono solo a chiarire la differenza che esiste tra una unicità assoluta e collettiva, o plurale. Un esempio di come venga applicata questa parola l'abbiamo nel matrimonio. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Gli sposi sono e rimangono due corpi separati, ma una sola carne. La seconda riflessione in relazione al concetto della Trinità sono gli stessi nomi che vengono dati alla divinità di Israele, cioè Elohim e Adonai, che sono riferiti a Yahweh. Questi nomi sono al plurale, cioè Dii e Signori. Quando un ebreo pregava Yahweh, si rivolgeva a lui in questo modo: O Yahweh, mio Dii e mio Signori. Tale espressione aveva forse dell'irrazionale, ma rifletteva quello che un pio giudeo pensava. Poi vi sono i pronomi personali plurali usati da Yahweh in un contesto di monoteismo assoluto e avevano veramente dell'incredibile. Ascoltiamo. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Pensiamo all'imbarazzo in cui si dovevano trovare i copisti dovendo trascrivere un verbo al plurale, riferentesi però ad un Dio unico. Infine, come quarta riflessione, per comprendere che il concetto della Trinità era già presente nell'Antico Testamento, è il passaggio dal singolare al plurale che si rileva nei discorsi di Yahweh ed è spiegabile solo se all'interno della divinità vi è una pluralità di persone. Ascoltiamo la lettura in Levitico al capitolo 21. I sacerdoti non faranno tonsure sul loro capo, non raderanno gli orli della loro barba e non faranno incisioni nella loro carne. Saranno santi al loro Dio e non profaneranno il nome del loro Dio, poiché offrono i sacrifici dell'Eterno, fatti col fuoco, il pane del loro Dio. Perciò saranno santi. Non dimentichiamo che il testo ebraico della Torah ha almeno 3500 anni e che il plurale maestatis non esisteva ancora. Con queste premesse è normale quindi che Gesù e gli apostoli si riferissero alla divinità come ad un essere pluripersonale. Ascoltiamo la lettura. Iniziamo col Vangelo di Giovanni al capitolo 14. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Quindi Gesù si riferisse alle persone del Padre e dello Spirito Santo. Ora ascoltiamo la lettura in Matteo capitolo 28. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù inviti i discepoli a battezzare nel nome e non nei nomi delle tre persone della Trinità, attestando in tal modo che vi sia un solo Dio. Infine ascoltiamo in Secondo Corinzi al capitolo 3. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Nella benedizione apostolica Paolo fa menzione di tutte e tre le persone della Trinità. Ma la prova più evidente

cioè al Dio dell'Antico Testamento, e non alla persona del Padre. Dato che Yahweh Gesù Cristo, elencando gli attributi di Dio, elenchiamo in realtà le caratteristiche di Cristo. È vero che la natura di Cristo è uguale a quella del Padre e che Cristo e il Padre sono uno, ma non possiamo fare di tutte le erbe un fascio per quello che riguarda le loro persone. È il Padre che ha dato il Figlio per la salvezza dell'umanità, è il Figlio che è morto in croce ed è lo Spirito Santo che rigenera chi crede. Così, per una corretta comprensione del nostro messaggio e della nostra fede, è saggio e corretto riferirsi a Yahweh parlando della persona del Dio dell'Antico Testamento, al Padre quando sottintendiamo la persona di Dio Padre e a Dio quando vogliamo intendere la Trinità. Questo invito può sembrare inutile, perché parlando di Dio spesso ci si riferisce alla sua natura, per cui non è mai sbagliato affermare che Dio sia tre volte santo, perché tale affermazione è riferita sia al Padre che allo Spirito e che al Figlio. La mia preoccupazione è un'altra. Siccome che per tanti anni ho sempre applicato la parola Dio al Padre, a meno che non venisse specificato che essa era riferito a Cristo o allo Spirito Santo, e notando che la mia interpretazione sbagliata è comune a tutti, trovo sia opportuno che, parlando o scrivendo riguardo a Dio, si specifichi a quale persona della Trinità ci si voglia riferire esattamente. Perché Dio è uno, cioè Ekat, ma non è solo uno. Quando tutti scorgeremo nella parola Dio non più automaticamente la persona del Padre, ma la Trinità, allora la mia esortazione avrà raggiunto il suo scopo. Può darsi che queste riflessioni non abbiano dissipato totalmente i dubbi e gli interrogativi in relazione alla Trinità, e ciò è comprensibile. Termino perciò con il seguente episodio che mi sembra molto significativo. Un giorno un credente diede una copia del Vangelo di Giovanni ad un musulmano, studente in legge, cercando di interessarlo. Costui glielo riportò dicendo: «Questo libro narra di un tale che è chiamato Parola di Dio, dichiara che egli era con Dio e che nel medesimo tempo era Dio stesso. Come può una persona essere con se stessa?» Il credente gli rispose: «Poniamo che né lei né il suo professore sappiate risolvere un problema di matematica. Questa vostra incapacità chiarisce almeno una cosa, e cioè che né lei né il suo professore avete inventato il problema. Ora, la domanda che lei mi ha fatto è appunto un problema, non di matematica, ma di teologia. Il problema dell'essere e della natura della Trinità di Dio. Migliaia dei più profondi cervelli hanno per secoli cercato di penetrare questo mistero, senza tuttavia riuscire a spiegarlo. Chi lo ha inventato, dunque? L'uomo può spiegare ciò che è stato inventato da un suo simile, ma se non si può spiegare una cosa, significa che quella cosa non è stata inventata. Deve trattarsi quindi di una rivelazione. Che l'Eterno Dio vi dia, cari ascoltatori, uno spirito di sapienza e di rivelazione. Amen.